La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Come tutti sappiamo, l'Italia ha quasi 1000 fra deputati e senatori, ma il numero dei deputati è fisso, in quanto l'articolo 57 della Costituzione richiede che siano 630, mentre il numero dei senatori è variabile, perché è sì vero che se ne eleggono 315, ma ad essi vanno aggiunti i senatori cosiddetti di diritto, che sono proprio disciplinati dall'articolo 59. L'articolo 59 riconosce il diritto a essere senatori per due categorie, gli ex presidenti della Repubblica e i cosiddetti senatori a vita, cioè coloro che siano nominati dal Presidente della Repubblica perché hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Due punti di interesse. L'articolo 59, primo comma, riguarda il diritto degli ex presidenti della Repubblica ad essere senatori a vita, ma, come specifica lo stesso articolo, salvo rinunzia. Questo ci fa capire che qualsiasi carica può essere rinunciabile, anche una carica di diritto, in quanto qualsiasi facoltà, qualsiasi diritto in un sistema democratico può sempre essere rinunciabile. Il secondo comma, invece, riguarda i senatori a vita e fissa in 5 il numero dei senatori che il presidente può nominare. Tuttavia, su questo articolo 59 si sono create nella storia repubblicana una serie di polemiche anche vivaci, perché l'articolo 59 non chiarisce se il numero di 5 senatori è nominabile dal singolo presidente o da tutti i presidenti insieme. Cosa intendo? Facciamo il caso del presidente Pertini. Quando il presidente Pertini entrò in carica, già erano presenti una serie di senatori a vita. Come nuovo presidente, lui pensò di poterne nominare 5. Tuttavia, nominandone 5, si superava il numero completo di 5, il numero complessivo. Venne quindi istituita una commissione di studi che riconobbe al Presidente della Repubblica, al singolo Presidente, la facoltà di nomina dei 5 senatori a vita. La prassi successiva, invece, è stata più restrittiva, perché i Presidenti hanno nominato i senatori a vita soltanto nel limite complessivo di 5. È interessante vedere come una disposizione costituzionale, un testo costituzionale, possa essere interpretato nei due modi differenti, perché l'articolo 59 secondo comma non chiarisce se il Presidente della Repubblica nomina 5 cittadini senatori a vita o ciascun Presidente della Repubblica nomina 5 senatori, e quindi la formula neutra che viene utilizzata, il Presidente, può essere soggetta a entrambe le interpretazioni. Può essere interessante e curioso scorrere l'elenco dei senatori a vita nominati dai singoli presidenti, perché così ci accorgiamo di come siano arrivati in Parlamento anche personalità significative del mondo della cultura. Enrico De Nicola non nominò nessun senatore a vita, mentre Einaudi fece nomine molto significative: il matematico Guido Castelnuovo, il direttore d'orchestra Toscanini, lo storico Gaetano De Santis e un poeta famosissimo, Carlo Alberto Salustri, più noto come Trilussa. Ancora nominò Luigi Sturzo, sacerdote e politico. Gronchi nominò Giuseppe Paratore e Antonio Segni nominò invece dei grandi partigiani come Parri e Ruini. Saragat nel 1967 nominerà senatori a vita Eugenio Montale, mentre Sandro Pertini, con l'interpretazione estensiva che abbiamo detto, nominerà Leo Valiani, Edoardo De Filippo, Camilla Ravera, Carlo Bo e Norberto Bobbio. Ancora più di recente Cossiga nominerà Gianni Agnelli, Scalfaro invece non ha nominato nessun senatore a vita, Ciampi più di recente ha nominato nel 2001 la Levi Montalcini e il poeta Mario Luzzi e ancora Giorgio Napolitano da ultimo ha nominato oltre a Mario Monti il giorno prima di diventare Presidente del Consiglio anche Claudio Abbado, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia. Quindi aprendo nuovamente il Parlamento a figure di spicco della società civile e della cultura.